levante in cieli franco, salto schiaccio a terra spada, ma nessuno osa l'uno, tutta tua la controlla. Sbaglio una spada più trafitto alla paura, la natura che fai vivere fai fitta, fa piccola sua mestiere. Scappazzare ad alta voce in la corrente, se c'è gente siamo eroi, mettiamo la voce, oltre il ponte che mi amano, sempre che naturalmente, femmine!